cosa arriva a fare? Come sentire la musichetta? Che bella. Ma zitta. Thank you. di K per qua, l'ho trovato. Attaccato l'hai? No, dopo lo dovevo attaccare, mi hai detto, per qua. Il baracchino alla scarpa. Allora, dal baracchino al rosmetro, ok. Di dove, Pierpa? Non ti sto capendo. Io adesso che cosa devo togliere? E che cavo devo togliere da qui? Lo dico io, allora dalla scarpetta al baracchino. L'unico spezzone, scusa, perché va antenna, allora fa antenna, scarpetta, poi da lì fa il ponte, va scarpetta al baracchino. Antenna del rosmetro, tutto attacco, l'antenna, il cavo principale, l'antenna. supera i 10 watt qui, quindi che cosa sta succedendo? Niente, è tutto regolare, è tutto regolare, non ti preoccupare di quello. Ascolta, la televisione. Aspetta che la mia moglie di cambiare, un secondo solo. Di Giuseppe e di Luca, avanti perché voi. Sì, yeah, vi saluto a tutti, da. Cappa cappa, l'entrata veloce. Saluti da Anna, 3. Salutori. Cappa in positivo, da questa parte Giuseppe gli cambia tutto al centro. Giuseppe. Io, ciao Giuseppe, pure a Tia. Cappa, e avanti vela. Oh, posso dire ciò che ho acceso anche l'altro, che questo dell'altro è più giusto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ma fammelo attaccare, attacco però. Noi parti da un come attacco. Cappa, dai, dai. Parto staccato come adesso, dai, dai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prova radio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E così è da 9, 10 a 9, 20. Eccolo, l'amore mio è arrivato adesso in radio. Su che andiamo, che adesso cominciamo a capirci più niente. Come in questo? Cappa, puntuale come l'orologio svizzero, proprio il secondo spacca, Vabbè, dai. Noi durillo, anche se non abbiamo bisogno prendi e non abbiamo il look. Ma siete stati nel fisso tutti. Che ne so, diciamo, le 20 e 10. No. Sì, bello forte, hai iniziato bello, bello, bello, bello. E io, sono stato nel fisso. Volevo sentirlo, ti lascio la porta a te così, va bene. Guarda, devo sentirlo, mi spingo di tutto, Pierpa e Ciccia. Mi dispiace perché oramai è diventata una cosa abitudinaria, cioè ogni sera a casa. Ma allora, che cosa è maestro Gianni, che oggi, non so, mi ricordo, maestro le stava facendo un fax, e dice che ha sentito lo stesso rumore. Non so il rumore che fa il fax, ce l'abbiamo anche noi del stabilimento, ma un fax che butta fuori carta per due ore, Pierpa. Ma Gianni, ma un fax che butta fuori carta per due ore e mezza. e cioè non trovo una spiegazione. Che te devo dire? Magari è qualche ufficio che riceve l'arti, e tu non sei al corrente. Sì, ma io qua ho uffici, Gianni, dove c'è il segnale più forte, e non ne ho, perché se mi sposto da questa via vado, come ho fatto sotto la barba, sono andato proprio quasi dentro le coste col portatile, il segnale lì non ce n'è, addirittura manco quel REM qui dietro casa c'era. Mi sentite? Avanti Luca, ti sentiamo forte e chiaro. C'è una cosa da un guacco, aspetta. Ai ai ai. Sapevo che rientrano, mi spacca quattro timbali. basta. No, adesso l'avevo preso, anzi, e quindi non posso spaccarti le orecchie. Ma mi sai, con quel microfono che se usi un WP punti, dai, ci viene il bagno ma adesso. Invece tipo ti do il canale per dirti se era nel contempo quella stampante ferma. No, se ho stampato anche da poco con quella stampante. È che mi ha fatto quel difetto lì e io la resettavo, andava bene, la prendevo e ti tornava a fare quel difetto. Anche un brasile, l'ho fatto un esempio di fabbrica con software della Canon, quindi non c'è problema. Mi ho fatto tutta pezzare il difetto. Allora, se è così tanto, ho fatto due pagine di prova e poi sembra che stia finendo il nero. Mo vediamo, lascio riposare. Ma è possibile, sono le cartucce nuove. Non essere prima di stampare praticamente le cartucce nuove lì. Quasi il nero stia finendo, ma mi sa strano, mi sa un po' strano che stia finendo il nero. Ma sai cos'è che? Dopo aver fatto le primi tre cicli di pulizia, perché i colori erano completamente tasati. Il colore di stampa, però il nero, dopo che fai una pagina normale, da una pagina di 80 righe, comincia a fare un po' di cilenza. E vabbè, aspettiamo domani che se ne cala, effettivamente dopo che tutto tutta sbrindellata, c'è bisogno di riposarsi, c'è bisogno di riposarsi le cartucce. E lei, come ti ho detto io, che c'era con la parete piena di inchiostro? No, non c'era nessun inchiostro, è pulito dentro. Neanche di montata a niente, è il contacopie, c'è il contacopie, loro fanno un calcolo approssimativo di quante copie può fare, dopo un tot di copie ci potrebbe essere la spugnetta sporca, in effetti non viene una mazza. Neanche tutta a terra smontata completamente per niente. Ma comunque vabbè. Ho preso che ho fatto il reset via sotto. Qui se la biglia dove non batte il sole. Andrà bene nella verità. E infatti ho detto, ma strano, cazzo, che sempre con questa parte di inchiostro ti dicevo. Sì, ho visto. Ho provato a fargli il reset così alla cacchio, quello semplicino che te l'avevo descritto io, effettivamente poi la spegni, la riaccendi, se la spegni aspetti 10 minuti, riavvi il PC, la riaccendi e ritorna come prima. Quindi ci vuole quello che hai fatto tu per funzionare. Sì, è un reset di fabbrica, una cosa con software della Canon, che però puoi fare solo quando sei sicuro che veramente le spugnette sono pulite, altrimenti è tutta allaga tutto tanto. Famo sì. Sì, yes. Va bene, ripetita Falchetto, mi coglione, ben nominativo, ripetito. Io volevo salutare Domenico se mi sta ancora copiando. Domenico, mi copia ancora? Come se mi copia ancora, buon trabacco, buon rientro, dai, tutte le prossimine. Ciao. Ma che così che non ce l'ho a facere. Pagappa. È così, Cazzo mi ha attaccato più senza pannuta che quando sono travagliente, cazzo, te la taglio. Ha visto là, che si mi dà la mia. Però l'ho detto lì. Carezza, guarda. E quando stai senza lavorare mi si bisogna andare a noia. A me mi parli così, per esempio. Sì, anche a me. La paranoia mi si piglia, buh. Così è così. Ti prendete l'Adriano. Adriano Bianco ha fatto la parete. Prendo si usa. A chi nei 5 minuti si mette a fare quello, chissà cosa tutto sta facendo lì. Cioè rimane le mani impattate e tutto lì. Saviti, pinte, tutte cose. dovete essere contenti che vi siate riposati. Noi preoccupati, tutte se ne sono andate, tutte se ne sono andate invece, ma caricato stavi già. Io nel giro di vacca non si è aggiurato, non mangio un pezzo di ricotta fresca. Io di salata, così. Mi devo mangiare un arancio qui, me ne sono dimenticato. Cava cava. Quindi c'è la Natalia. Cosa era? Non mi è entrata allora. Sono viaia, questo è già mio mascena, Quando esci con Natalia ti fa passare tutta la dieta che fai. Ti porta a mangiare i panini, ti fa mangiare come un coso. Vabbè, Natalia, non te monello. Ah, io sono come non lo sento, il bastardo, mi ha fatto interrompere la dieta, Già va bene, quando ci sia un po' di appetito già va bene mangiare, dai. Che ne la ringhiendi di baffa, oh, me ne posso un altro di baffa. Non si era tanto. Oh, che l'ha detto, sugli acqua di nuovo, non si muove su, Comunque era un bel buono, già vedi. E non era come ti dice che mi ha un piatto di segni. Quello lì, cazzo, era... non era come quello di Antonio, quello di Antonio era povero il panino. Ogni abbanino. Quello era un paio gigantesco. Quello di Antonio era a paura di... Si mettava a me su panino. Non essendo di cose si era mangiato. Guarda a me il vostro volare sul panino. Come ti dice Antonio, lui non voleva mangiarti con lui. E lei ha detto, ma se commetti un momento, noi ti mettessimo in umano, poi la passava con voi, poi, e dopo te ti faccio un buco, ti faccio la fame. Mi dice, ma non so cosa mangi mangiare a te, io non te lo dico, guarda. Chiaro. Tocca, la carta di adesso non voleva mangiare a gran farlo con la bocca. Guarda, piccola cosa, se tu ti mangi la testa, ti rimarrai alla seduta, allora si ti va a morire. Io voglio mangiare di chi di banana. Bianco. Fa le banane poi sono pesanti. Se non anche le mangiassi si va a parte. Sì, anche se li piatti adesso li mangia, tranquillamente. Tutti che li piatti anche. Ma stava portando un attimo. A me che dice, tra piani. Allora, c'è un rumore, ma c'è anche portante sotto. Senti la... Sì, anche quando io ho mollato l'ho sentito. Allora, comunque, io mangio un bel. Io vado a dominare prima, vado più, vado a massa. Ma c'è più fame a fare, io non la faccio colazione alle 6:30, se tornano un quarto, a seconda anche alle 7. Io faccio le 9:30, massimo 10 mi mangiare qualcosa. Qui si viene banane, qui si viene frutta. E poi io vado a casa e mangio. Vabbè. Anche io mangio vabbè all'età tua. Solo che adesso non posso più mangiare, non mangio. Ma chi si è mangiato i suoi mangia, guai. Io mangiavo bene, solo che adesso per non ingrassare non devo mangiare di meno casino. Mi ha minacciato il dottore. Vabbè, comunque. Non c'è problema. Bisogna mangiare. Ma io quando andavo lì da Renato, a Roma, ma panino, mi prendevo la cheeseburger. Cheeseburger mi sembra. Sono pesanti, ma poi me lo mangiavo. Se non fammi. E mi viene come la roba il vomica. Non voglio più mangiare niente. Ho ripreso. Io due me li mangio quelli qui, a parte gli scherzi. Quelli con Wurster patatine e ketchup, per me sono il massimo. Quindi fa che? Noi già, non lo so. Se c'è un problema me ne mangio anche io due. Anche io me li mangio quelli lì. Ma adesso sono andato in via Roma con una vicina. Mangio mangiato un capriccio. Da noi lì ci aveva preso un altro panino così GF, io me la bevo. Alla vostra salute. Sì, ci abbiamo avuto la tatti parini e una riuvita. Sono patatine e maionese, un po' di pezzi patatini fritti. Vedi, lì ci vuole un bel becchieron di vino. Sta meglio la birra. No, la birra no. La prima la bevevo, adesso che mi fa questi cazzi mal di testa. Se mi auguro, mi auguro per qualche. Buono. Qual è? Vai, c'è un buccione, no? Non è che? Qui c'è un buccione, no? No. Anche io c'ho roba di corbo da quei piselli avanzati da mezzogiorno, non è che basti un buccione di vino. Anche tu. Chissà che cosa mi raggio, però no, non c'ho vino, che... E adesso è che tu va a comprare tardi. Infatti, avvantaggio. E io gioco pure la riserva. Stamattino andiamo, Andrea. Dove? Stamattino. No, non sarà che vado in vendita a comprare il vino. No, vabbè. Attento, prima non dovevo andare a Pittigusa. E ci vuoi la macchina tu, fa che? No. Ma dove c'è la macchina? No. Fatta. Non dico uno dei più forti, ma Alivolive, Agnello, Trippa, Favre, ma quanti ne vendia? Come vedete ci andava, bomba. Ho fatto una trattoria di un mattino, guarda, buon'anima. Ma sai, gli olive vendeva con le caramelle. Magari se sentiamo di vita ce la dice. No, abbiamo a minuti. No, conosco. No, guarda. Vendeva, beh, ma tanto, sono quando piccolo non andavo a prendere gli oliveri. Ma buono, Poi il vino. Ma io mi ricordavo che prima. Se sono sempre stato ancora così, sarebbe sempre andato quel circo. Diciamo, come dice, c'era al biliardo, ma ti parlo di forse una ventina di anni fa. È diventato un bar, non lo so neanche se ne fanno più di quella roba lì. Sì, ma ce l'hai già pure il legno dentro. Io non riuscio quando andiamo a mangiare. Io portavo la pentola, la facevo nei piedi, ma la facevo la croce e mangiavo un po' la roba calda, la sera quando per dire andavo a fare notturno. Sabato sera andavamo la mattina, ci prendevamo un po' di trippa, un po' di fame, andavamo con le pentole ci riempivano. Ma sotto, arriva, fermo che ti guardo. Quindi sì, confermo. Ma la roba di migliore non è che mi piace, un via che è buono, però non lo mangio, la verità. Compravo la trippa, allora sì, trippa, fa, olive, la roba lì sì. Comunque andava, e a voi si andava. Entravamo in cucina, addirittura ci faceva entrare, con la pentola c'era di più. Tu stai parlando prima già? Yeah. Senti, ma sotto, ma sta arrivando con lo scalo. Ciao Gianni, scusa, forse ho toccato il gatto, ha toccato il gatto Gianni. Perché sono piccolo e nero. Ciao Adriano, senti, non fa niente, non c'è problema. No, non fa tutto. Provate a mettere per l'assassino che ha riaperto. Non ci sono più tornato, lì una volta sono andato, poi basta, non ci sono più tornato. No, a me mi hanno evitato, mi hanno dato anche il menù, eccetera, il menù faceva paura, 25 euro, c'era una cosa da farsi venire in digestione perpetua. Però non mi sono andato, perché io lo conoscevo quando ero ragazzo, infatti l'assassino con me. Ci andrò in queste sere, se magari come prima. Si può organizzare, un sabato sera. Adesso sono finiti di cose. Allora, Sandra di cose, alla grande di Graviglia, Natalì, per carità, mi sta crescendo la panza, non tanto sia. Troppa roba sta rottendo. carrozzine, di legno, fettine di pancetta, salsiccone, che dovrebbe essere, basta fare un po' di viaggio. E prende il palchetto, mi stai già per gli anni poi. Cappa, cappa. Io non mi metti per Giovanni in cucina, io c'ho una cosa veloce. Lui mette le pancetta, un po' di salsiccone, e vai, riprendi già. A me la pancetta piace molto, salsiccione non lo digerisco, è l'unica cosa che non digerisco. Guarda, guarda, io quando l'anno scorso ero, diciamo, con parentia arrostita, ho mangiato la pancetta che l'ho fatto, guarda, sottile, sottile, era la lingua, la forma di usare, ma guarda, un burro, buoni, cucinata alla grande, bene, perfetta. Buona, buona, veramente, sottile, sottile. Cioè, basta che tu la fai diventare un po' croccante, se ne sono esce in gomma, non è bianca, invece è un po' croccantina, perché si vede un po' scura sopra, dorata. Dai, era così. Sì. Dove sei? Dove la piglia a casa, ero macchiato. Questo è logico. Zittina. Allora, bisogna organizzare cosa mai frutta. Io lo piglio cosa? Luca, di tu cosa hai detto? Balle di cammello, cammoneso. Zimino di cammello. Ah, ho capito, balle di cammello. Zimino di cammello. Come vuol dire? Fatto mi ha bloccata, aspetta, stavo dicendo Natalino. Fa cuffia, non ricordo più. Natalino. Sentito, la sto mangiando. fossero le acque che stavo parlando tutti insieme. Cagata, ora c'è la tua voce. Tutto quanto ne è pronto a partire, tra un mese. Ecco, diciamo che dovrebbe aver migliorato così, anche se sto facendo passo di partenza. Io ti sentivo anche qui. Se la radio è più chiara. Vabbè. Comunque vi comunico che poco fa stavo uscendo senza questa antenna. Quando sta domenico non li invio. Non lo sapete, cosa la tari che... Vabbè, la tari va tirato. Ma quando non ho ascoltato l'assolo si è spinto rispetto al computer. Spero che entra più aria e raffredda meglio. Aspetta, curiosità, no, perché qua fa il verticale, non è che roba verticale, cos'è del blocco? Il tappo c'è sopra, il tappo dove c'è l'accensione, no, il tappo con l'accensione. È un tappo, poi alle due sviti poi avere la tastiera, sotto ci sono le ventole, no? Ma se non si è ascoltato niente, lui, c'è la grande andato. Questa è una conferma che c'è problema di raffreddamento, però siccome è un quel coso lì non è progettato per funzionare metà verso, è chiaro che tu devi chiudere e trovare qual è il vero problema, perché non puoi andare dico, con l'apparecchio o con le budella lì fuori. Gianni, ehi, mica mi ha fatto lo squillo a me. Davvero? Ma va, cosa faccio? Non la rispondo. Rispondi a... No, ma non c'è nulla a fare, li ricorda a Panguale. Ah, smetti, raga, ma io non lo so. Di cosa te la pigli? Da voi ti lamentichi sei solo, vai! Natali, sinceramente ti posso dire una cosa da amico. Tu sei povero sciato, devi tirartela un pochettino, ma tu te la tieni troppo così. Manco la rispondo, va. Fa una cosa, fa la telefonare a me, là, che così almeno la consolo io. Gli amici si vedono al momento il viso. Bastardo. Bastardo. Sì, ma posso lavorare. del mano. Ah, cappa, occhio. Ma la prima chiedo, mi sta dicendo l'altra volta se era probabile che potesse leggere le nostre conversazioni. No, quella è un'altra, ma quella già la sto tentando, la gente con Gracciapu. Quando me ne sono alzato per mangiare, me ne sono accorto, l'ho girato e... prendo quello della scrivania adesso, mi... poi giro il commutatore e me lo passo là. Gappa gappa. Va bene. Anda bene Mera. E beh, ha cambiato la giornata notte. Mette, credo. Lura, ci sei? Perché ce ne sono andati sul 5? Stava provando coso vela con Antonio, boh, non lo so, dobbiamo andare sul 5, cosa dici? Proviamo. Andiamo, va, via. Tutta la situazione già, a tutti i dini, e mi ha dato un bel divertimento. contenuto. Magari riesco a concludere. Cazzo, come mai? Stavamo già facendo la musichetta, porca miseria. Cosa mi hai mandato? Stavamo già facendo la musichetta l'altro giorno. Tu, dove siete già sul. Non vedo che è succiardo. Cosa mi sa che è succiardo? No, non mi sa che è succiardo, banzo io, no? Ma no, non mi attiva, capito? Non è come dell'altra, un preso. Vabbè, però di passare all'altra, ma infatti, capito, se fosse stata un'altra magari l'avrei fatto così. Infatti, fosse stata un'altra magari non l'avrei fatto così. Ma non mi interessa, capito? Non mi interessa l'articolo brutto. Cosa? La mola del braccio ti è cresciuta di nuovo. Perché? Perché mi sta passando? Mi ha dato l'intesa la mola su. Io fallo girare come l'attivo, fallo girare. Ora, fallo girare già. Questo non gira nulla, questo è lente. Così che sta girando, con 45 giri. Sono a 45 giri. Cavagare. Ho già, ho scoperto una cosa oggi, guardando. Cosa? Se non ricordi quella questione del microfono di quell'apparecchio che c'è l'apparecchio. No, e poi ho controllato bene oggi. E niente, praticamente c'è questo precisindico, però uno è dinamico, l'altro no, l'altro è elettrico, c'è un compatore dentro, che è un altro sistema. E si sta, qui non è più bisogno di amplificatori, di nulla. Ma c'è quello là fa quattro apparecchi, fa quello dinamico. Questo no, questo è unico, questo è solo esclusivamente per questo apparecchio originale. Cavagare. Natalino, e dimmi, hai sentito la Gianni, si è posizionato nella pista in fase di collaggio, tra poco su che si rulla. No, Manzo. Che ragazza. Ma io cazzo, io all'età tua a quest'ora stavo brinchettando come un pulito. Ma allora ti stai addormentando, dacciamo la mola, no? Buonanotte fiorellino, buonanotte fiorellino, buonanotte per telefono, c'è tu punto il telefono, vero mio amico? Ma c'è la parchetta, cazzo, no, chissà che fine ha fatto. E chi lo sa? No, sul 45 eravamo, ma gli ho detto facciamo al 5, siamo passati al 5, poi ho messo il regno, vi ho seguito, ma io devo dire ma che un giudizio non intendo. Ma là non c'è stato nessuno, no? Io ero sul 5 perché no, facevo le prove promettive. Cambia. Forse le mani non devo avvisare a Minichizzo, devo andare all'ufficio di collocamento, vedi? Ma c'è, ora. No, le gradatori ci sono, di quella domanda che avevo fatto io. Ah, cava. Pensavo che c'era roba di lavoro. Magari non sei camaro. Ci vuole stato un po' di lingua in mano. Allora c'è il gradatore, dove sono? Ma delle domande che avevo, una domanda che avevo fatto io, capito? Allora come sono entrato in quella gradatoria? Beh, non mando ghizzo, no? Tante sono barbari dalla gradatoria, ma le due piccetti da vicino, da lì. ma quindi non è un po' il travaglio, è un'altra domanda a parte. No, per vedere che non sono entrato in grande arteria, se entro o non entro, la pittola. E quanto bisogna entrare in grande arteria per entrare? Quello che l'ho impiegata. Tanto se non sono appese me lo faccio dire lo stesso da quella signorina lì che nel computer ce l'ha e me la fa vedere e mi dice se entro o se non entro, come ho fatto l'altra volta. Non so a che cosa servono queste gradatorie, però se tu mi stai dicendo che non è roba di travaglio, non so per che cosa servono allora. È roba di travaglio, tu, però sono le gradature che hai fatto il tratto, mi. Oh, ecco. E in che posto mi sono messo? Che non entrerò mai, ma vediamo un po'. Non si vede mai, no? A 6-4 mesi noi mi facciamo il chifu. Speriamo bene. Tu uscirà quella l'autista pure e la faccio subito, immediato. Quando la conosce, sono lì. Piano piano, un primo 10 bisogna andare, corri. Ah, tutto io le faccio. Non si dà mai. Non si sa mai no. E io che ne frega, è pure per travagliare, pure. Il resto conta e non conta. Ma fai i fabbricati di due curriculum, non sei riuscito a mettere al meglio. Cazzo, figurati. Già me l'avevo detto, fatto bene. Ah no, se non faccio non campa, io andrò e poi chiù. Cazzo, a me mi serve trovare lavoro subito, se no è un casino, se no non so come fare. A me senza travagliare, guarda, mi si piglia la paranoia. Pare così, ma a me mi è fatto solo cose così. Lo so, ma state purtroppo. Ma vorrei che qualche cosa si sblocca e si va subito, dai. Io la vozia. Ma la vozia mia sta così qua. Mi ho le scatole piene. Vabbè, pazienza. Ma se c'è subito è meglio. Di cavolo, comunque l'altra volta è stata una grande occasione, quindi la salute è stata una grande occasione, me la giovatti e dai, ti devo ridurre a entrare. Va bene. L'altra volta sono entrati in due gradatorie diverse, mica mi chiamano tutta la roba del verbano, bastardi, cazzo. Ah, se non li hai fatti bene erano 6 mesi, cazzo. Di mia cognata che mi voleva dare l'autobotte perché era stanco di non far niente, mi sono entrato di un'ora, dice che non muoveva l'autobotte, cazzo, lui non mi ha fatto gara immediatamente, a chi sembra che travagliavo, un preside mandrone. Ma no, se uno lavora, diciamo, non avete capito questa cosa. No, me l'ha fatto tu l'altra volta per farmi guidare gli altri mezzi perché sa che io lavoro, capito l'aria del discorso. Non per aver raggiunto una sincope subito, mentre dice il mese di altre volte. Caramidu. Ah, ci avrà capitato, dai. Devo aspettare un po' prima, ma ti piace proprio qualcosa. Tanto se entro per una lì non me ne fanno usare altre volte, manco per le balle, perché non fai un cazzo lì. All'inizio è di Nibu, sento casa senza un cacchio. In estate solo si lavora lì con l'altro botte, ma non assai, mi. Cazzo, sempre prima di noi venivano lì. Invece io, pensavo nel mezzo, dovevo rimanere in chili. Qualcosa del genere. No, perché il dottore lo sa già, anche i giovani lo sanno già che io lavoro e non mi lasciano lì. Mi mettono a travagliare, non è un friso. Ma chi se ne importa? o che sia una cosa che sia l'altra portata a lavorare. Ma io sono poco mai sicuro, tanto grazie se non trovate niente di sciuro. E poi a me la mia gente trova, no, non sono di quelli che sono scansapatticcioni, che si imboscano. Avanti già. Tutte le prossime, a domani. Ciao Antur, anche a te. Ciao a Gianni se sta ascoltando, buonanotte. E rientrare a Fortuni, alle prossime. Al Palmo Puretti, K. Cappa dai, buonanotte da Parrino, va. Ce la recettiamo domani, alle prossime, ciao ciao.